Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se la Raggi non vince, mi do fuoco in piazza. Come perché di nuovo io sono veramente, ma lasci perdere i movimenti, la politica, parlo da uomo normale, come non so se lei è un uomo normale, però da persona normale, io non capisco come una persona non voti una persona come la Raggi, non lo capisco. E se non la votano si dà fuoco in piazza, così ha promesso Grillo oggi, parlava nell'intervista al Corriere.it. Noi parleremo di politica, ma più centrata, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sugli sviluppi dell'inchiesta sul petrolio lucano, le tensioni anche tra Renzi e la magistratura, e poi ci sono degli ulteriori sviluppi anche per quanto riguarda le intercettazioni dell'ex ministra Guidi. Ne parleremo insieme a molti altri argomenti. Quello che vi chiedo stasera invece, a proposito dei temi che tratterò stasera con gli ospiti, scusate la poca voce che per il momento esce, ci occuperemo anche del caso Regeni, naturalmente, visto che mancano due giorni, teniamo sempre alto l'argomento, ma in più mancano anche due giorni all'incontro a Roma tra gli investigatori, tra gli inquirenti italiani e quelli egiziani. Oggi Gentiloni al Senato ha lanciato un nuovo monito, una minaccia, come vogliamo chiamarla, nei confronti delle autorità egiziane. Ha detto: se nei prossimi giorni, se in questo incontro non ci sarà una svolta, prenderemo delle misure drastiche. Allora, quello che vi chiedo, siccome nei giorni scorsi la mamma di Giulio Regeni, in quella conferenza stampa molto toccante, aveva detto che se fosse stato necessario avrebbe anche mostrato le immagini del corpo, del viso martoriato di Giulio Regeni, quello che vi chiedo è: secondo voi potrebbe essere opportuno mostrare queste immagini per dare una svolta, per colpire le coscienze, per farne ancora di più rispetto a quello che è un caso internazionale? Voi sareste d'accordo col mostrare le immagini, fosse necessario, di Giulio Regeni? 349-238-6666, lo sapete, sempre il numero per i vostri messaggi, sms e anche per i whatsapp, 349-238-6666, oppure per voi comodamente sempre lì, giorno e notte, la pagina Facebook di Effetto Notte. Mentre voi fate, cominciate a fare le vostre riflessioni, io vi riassumo come sempre la giornata. L'inchiesta su Tempa Rossa, botta e risposta tra Renzi e magistrati, mentre il Movimento 5 Stelle presenta la mozione di sfiducia contro il governo. Lo scandalo Panama Papers, il premier islandese messo sotto pressione dalle proteste di piazza si dimette, e a Kiev le autorità fiscali ucraine indagheranno sul presidente Poroshenko. L'assassinio di Regeni, monito di Gentiloni: o c'è una svolta su Regeni o prenderemo misure immediate. La crisi dei migranti, il Papa potrebbe andare molto presto sull'isola greca di Lesbo insieme al patriarca di Costantinopoli. Pensioni: Renzi annuncia che allo studio del governo un bonus di 80 euro per le pensioni minime. Calcio: torna in campo la Champions senza italiane. Il Napoli pronto a ricorso contro le 4 giornate di squalifica per Higuain. Partiamo quindi dalle polemiche legate all'inchiesta su Tempa Rossa e il petrolio lucano. Oggi nuovo botta e risposta tra Renzi e la magistratura, mentre i 5 Stelle hanno appunto presentato, come dicevamo, la loro mozione di sfiducia contro l'esecutivo. Promette un nuovo ministro dello sviluppo economico a breve, chiarisce di non accusare i magistrati, anzi di volere le sentenze, si dice orgoglioso di Tempa Rossa e spera che il referendum sulle trivelle fallisca. Il premier Matteo Renzi interviene in videoconferenza su Twitter e Facebook e risponde così ai cittadini. Il referendum delle trivelle non parla di nuovi pozzi, di nuovi scavi, di nuove trivelle. No, dice le trivelle che già ci sono, che poi non sono trivelle ma sono impianti all'avanguardia a livello internazionale, di straordinaria sicurezza. Vogliamo continuare a tirar fuori il gas e il petrolio che c'è? Oppure diciamo che siccome noi abbiamo deciso basta, sapete che c'è? Chiudiamo tutto e andiamo a comprarlo dagli arabi o dai russi. Ma le parole di Renzi in direzione PD, che accusava i magistrati di potenza di non andare mai a sentenza, non sono passate inosservate, e l'Associazione Nazionale insorge. Per il presidente della sezione Basilicata, Salvatore Colella, le dichiarazioni del premier sono inopportune nei tempi e inconsistenti nei fatti. Inopportune perché arrivano in un momento delicato dell'inchiesta Tempa Rossa e inconsistenti perché smentite solo poche ore dopo da un pesante verdetto di condanna contro i vertici della Total nel processo Totalgate. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi ci ritorniamo. Nel frattempo non mancano sviluppi nell'inchiesta. potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo l'inchiesta della Procura di Potenza nel filone riguardante lo smaltimento dei rifiuti del centro Oli dell'Eni a Viggiano. I carabinieri del NOE hanno acquisito migliaia di cartelle cliniche degli ospedali lucani per verificare le patologie presenti in regione, tra cui anche quelle relative ai tumori. Secondo l'Associazione Medici per l'Ambiente, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità evidenzierebbero un eccesso di mortalità per tumori allo stomaco e per leucemie, in particolare proprio in Val d'Agri. Oggi intanto sono iniziati gli interrogatori di garanzia degli arrestati. Giovedì dovrebbe essere sentita come persona informata sui fatti il ministro dimissionario dello sviluppo economico Federica Guidi. Solo dopo, se appreso in ambienti giudiziari, verrà fissato l'interrogatorio del compagno Gianluca Gemelli, indagato per corruzione e traffico di influenze illecite. «Mi stai utilizzando», avrebbe detto in lacrime al compagno il ministro in una delle intercettazioni agli atti dell'inchiesta. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi, per quanto riguarda invece lo scandalo internazionale dei cosiddetti Panama Papers, cioè i centinaia di documenti consegnati a giornalisti investigativi di mezzo mondo da una fonte anonima interna allo studio di fiscalisti Mossack Fonseca del paese centroamericano, cioè di Panama, arrivano dall'Islanda le prime dimissioni eccellenti e potrebbero non essere le ultime. I documenti trapelati dallo studio panamense stanno facendo tremare i potenti del mondo e la prima vittima eccellente è il premier islandese Sigmundur Gulaksson. Travolto dalle accuse e abbandonato dalla sua stessa maggioranza, ha infatti offerto le dimissioni. Il suo nome è comparso insieme a quello della moglie per l'acquisto nel 2007 di una società offshore, la Wintris, utilizzata per investire milioni di dollari. Una decisione che arriva dopo le proteste di piazza e una mozione di sfiducia promossa dalle opposizioni. Lo scandalo in queste ore investe anche il premier inglese David Cameron, il cui padre, scomparso nel 2010, sarebbe stato tra i beneficiari di operazioni fiscali offshore. L'opposizione laburista alza la voce e pretende chiarezza. Non ho azioni, né conti, né fondi offshore, replica oggi Cameron. In Francia invece sotto torchio finisce il Front National. Non solo Marine Le Pen, ma anche il padre Jean-Marie, il quale sarebbe direttamente coinvolto attraverso una società offshore creata nei Caraibi nel 2000. Capi di governo, re, calciatori, personaggi dello spettacolo, l'elite del mondo, titolano i media internazionali. 500 le banche che hanno registrato oltre 15.000 società fantasma, 800 i nomi italiani. L'Agenzia delle Entrate sta approfondendo, mentre indagini le ha già avviate il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore. E nel frattempo si apprende che a Kiev le autorità fiscali ucraine indagheranno sul presidente Poroshenko e fra i documenti di Panama Papers spunta anche il nome di Gianni Infantino, che è neopresidente della FIFA. Lo riporta il Guardian, il quotidiano britannico Guardian, secondo il quale da alcune carte risulta che Infantino, quando era capo del servizio legale della UEFA, avrebbe avuto un ruolo in accordi relativi ai diritti TV affidati a società offshore nell'ambito di quella che i media bollarono come la Coppa del Mondo della corruzione. Infantino però ha sempre negato di essere coinvolto in questa vicenda. E siamo all'assassinio di Regeni. A due giorni dal vertice tra inquirenti italiani ed egiziani a Roma arriva il monito del ministro degli esteri Gentiloni, che oggi ha parlato in Senato e ha detto: o c'è una svolta su Regeni o prenderemo misure immediate. Poi, come dicevo, ne parleremo in modo più approfondito. Siamo alla crisi dei migranti. Papa Francesco e il patriarca ortodosso di Costantinopoli stanno mettendo a punto un viaggio congiunto sull'isola greca di Lesbo, che è uno dei punti critici delle migrazioni verso l'Europa. Si prospetta nelle intenzioni di Francesco questo viaggio nello spirito di una sorta di Lampedusa 2, il viaggio che fece nel luglio del 2013. Ci torneremo sull'alto valore simbolico e non solo di questo viaggio, qui più tardi a effetto note. E a proposito di chi scappa da paesi in guerra, parliamo di Siria, dove ci sono nuovi sviluppi dalle operazioni militari sul campo. Dovrebbe scattare entro un mese l'offensiva finale per la liberazione di Raqqa, la capitale del califfato in Siria, e quanto prevede il piano dell'esercito governativo, stando a fonti vicine al regime di Bashar al-Assad. Quartier generale del comando dovrebbe essere la città di Palmira, da poco riconquistata, che dista da Raqqa circa 200 chilometri, ma è molto vicina al confine amministrativo dell'omonima provincia. Tempi e forme dell'offensiva, precisano le fonti, non sono ancora stabiliti. Dipenderanno in primis dall'ok di Washington a Mosca per un'azione congiunta, ma anche dal comportamento dei dei ribelli dell'opposizione che, a dispetto della tregua, nelle ultime 48 ore sono tornati a colpire anche in collaborazione con al-Nusra. Proprio l'ala di Al-Qaeda in Siria in giornata ha abbattuto un jet governativo catturando uno dei piloti nei pressi di Al-Eis, cittadina strategica a ridosso dell'autostrada che dalla vicina Aleppo porta a Damasco. In mattinata l'ISIS ha attaccato un altro punto strategico del conflitto siriano, l'aeroporto militare di Deir el-Zor, che ha in mani governative. Nel tentativo di espugnarlo, il califfato non ha esitato ad usare armi chimiche. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di politica economica italiana, con l'annuncio di Renzi per le pensioni minime, dice: è difficile alzare le pensioni minime, in questo momento abbiamo dato la precedenza al ceto medio e alle famiglie con reddito di 1.500 euro al mese, allo studio c'è allargare gli 80 euro a chi prende la pensione minima, vedremo se saremo in grado di farlo, così ha detto oggi Renzi in questa diretta infinita Twitter e Facebook da Palazzo Chigi, diciamo trattato tutti gli argomenti, poi affronteremo anche soprattutto quello relativo appunto allo scandalo, all'inchiesta sul petrolio lucano. La cronaca adesso a Torino, dove si indaga sulla morte di una donna malata di cancro. Una brutta storia di malattia, di dolore, di falsi miti scientifici. Il caso scoppia a Torino, a cominciare dalla storia di Marina, malata di cancro e morta a settembre di 2 anni fa. Da questa vicenda, dopo la denuncia del fratello della donna, nasce un'inchiesta giudiziaria sull'operato di Germana Durando, medico omeopata che avrebbe curato il cancro alla pelle della sua paziente con sedute psicologiche e rimedi omeopatici. Su di lei pende un'accusa grave, omicidio colposo con l'aggravante della previsione dell'evento, ma il caso, dice oggi l'Ordine dei Medici di Torino, potrebbe non essere isolato, anzi, nel torinese risultano almeno altre due storie simili. Al centro della contestazione, in particolare, le teorie dell'ex medico tedesco Hammer, che mette al centro della terapia oncologica l'intervento su problemi psicologici. Un delirio per il mondo scientifico, ma che trova seguito e può risultare letale. Per il legale della dottoressa, nessun caso di plagio, sarebbe stata la sua assistita ad indicare a Marina una struttura dove farsi poi operare. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Adesso la notizia di un'operazione piuttosto eccezionale, bisogna dire. Per salvargli la mano dall'amputazione gli hanno messa in una tasca nell'addome. Questa è la singolare soluzione cui sono ricorsi alcuni chirurghi brasiliani per salvare questa mano, questo arto, rimasto quasi senza pelle per un incidente sul lavoro a un uomo di 42 anni, Carlos Mariotti. A segnalare la vicenda al quotidiano inglese The Independent, in sostanza la mano sinistra dell'uomo è stata cucita dentro l'addome e coperta con un lembo di pelle protettiva. Mariotti dovrà tenere la mano in questa tasca per 6 settimane in modo che sviluppi nuovi tessuti e materiali nei tendini in grado di ricevere il trapianto di innesti di pelle, perché cosa sarebbe successo senza questa procedura? Ci sarebbe stato un alto rischio di infezione e di decomposizione dei tessuti e dei tendini. E poi una invece sempre dall'Independent, questa notizia che riguarda la Spagna: è intenzione del primo ministro Rajoy abolire quanto prima la tradizionale lunga pausa iberica che segue il pranzo, al fine di migliorare la produttività e allineare la Spagna al resto d'Europa. Troverò consensi, dice, per far sì, dice Rajoy, che la giornata lavorativa termini alle 18. È consuetudine, infatti, in Spagna, pensate, iniziare a lavorare va bene alle 10 del mattino, interrompere alle 14 per una siesta di 3 ore, non so quanto di voi lo sapessero, 3 ore di siesta per terminare poi la giornata lavorativa alle 20, mentre Rajoy vuole, quantomeno, accorciare drasticamente questa pausa e far uscire tutti, come diceva, alle 18. Per chiudere il calcio giocato stasera, torna alla Champions League con le italiane ormai fuori gioco. Sono iniziate le prime due gare dell'andata dei quarti di finale: Bayern Monaco Benfica e Barcellona Atletico Madrid. L'Europa sogna la Champions e il nostro calcio invece alle prese con la giustizia penale sportiva tra richieste di condanne e maxi squalifiche. Giustizia ordinaria e sportiva si incrociano e si sfiorano, curiosamente perfino nella contemporaneità. Negli stessi minuti viene infatti ufficializzata la stangata sul Napoli e vengono diffuse le richieste del pubblico ministero di Cremona per Antonio Conte. 6 mesi di reclusione con sospensione della pena nell'ambito del rito abbreviato per il futuro allenatore del Chelsea, accusato di frode sportiva per un unico episodio relativo ad Albino Leffe Siena del maggio 2011. E verso metà maggio, ma il prossimo, verrà resa nota la sentenza che raggiungerà Conte praticamente sulla scaletta dell'aereo per gli europei. Quanto al fronte sportivo, rovente come potete ben immaginare: 4 le giornate di squalifica per Gonzalo Higuaín, che ha dato i numeri domenica a Udine, un turno ciascuno per Koulibaly, Mertens e Sarri. Il prezzo per il bomberissimo è giusto, perché Irrati ha scritto referto di espressioni ingiuriose e gesti riguardoso per quelle mani appoggiate sul petto dell'arbitro. Non si parla di condotta violenta che avrebbe chiuso il campionato del fuoriclasse argentino, che comunque salterà le gare interne con Verona e Bologna e soprattutto le trasferte con Inter e Roma. Quest'ultima potrebbe essere per il Napoli la partita della vita, ma c'è la possibilità di uno sconto con il ricorso. E qualche euro sulla riduzione ci andrebbe pure di scommetterlo. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. E poi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ci sono stati i funerali di Cesare Maldini, icona del Milan, della Nazionale, scomparso domenica a 84 anni. Prima di aggiornare chi sta viaggiando, come sempre, vorrei leggere qualcuno dei vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Vi dicevo, visto che siamo a due giorni dall'incontro a Roma tra gli inquirenti italiani e quelli egiziani sul caso Regeni, oggi il ministro Gentiloni ha parlato in Senato cercando insomma di sollecitare le autorità egiziane a arrivare alla verità. Vi chiedo, la madre di Regeni nei giorni scorsi aveva ipotizzato, ventilato la possibilità di far vedere, di mostrare le foto del figlio martoriato. È una cosa naturalmente ancora in sospeso, diceva speriamo di non dover arrivare a questo per mobilitare maggiormente anche la comunità internazionale. Vi chiedo se secondo voi potrebbe essere una possibilità opportuna questa. Scrive per esempio Edi da Vicenza, le foto sono la verità e se serve dimostreremo che la verità sui fatti è irrinunciabile. Poi Andrea da Udine, massimo rispetto per la famiglia Regeni, voglio solo fare una provocazione, voglio vedere le foto dei due pescatori uccisi dai Marò. A parte Andrea, che sono due questioni diverse, poi bisogna fare un processo a questi due Marò e capire se effettivamente li hanno uccisi o no. Poi dice Mario, mostrare le foto non servirà a colmare una lacuna di scambio di informazioni tra agenzie di intelligence. Claudio da Roma, chi può decidere l'esito della vicenda già conosce le foto, mostrarle colpirebbe l'opinione pubblica, la quale però non ha voce in capitolo. Voi però continuate con le vostre voci per iscritto sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo tra pochissimo le notizie più importanti della giornata, voi però ricordatevi di accendere puntualmente alle 21 su Effetto Notte se volete un quadro della giornata complessivo, esauriente, e poi l'approfondiremo, l'approfondimento degli argomenti in modo da comprendere anche le notizie, in particolare poi tra poco parleremo degli sviluppi dell'inchiesta sul petrolio lucano e anche delle ripercussioni politiche. Adesso c'è questa tensione tra Renzi e la magistratura. Con quanta voce riesco a tirare fuori questa sera? Leggo anche i vostri messaggi. Ilaria, per esempio, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, scrive invece sul caso Regeni: eppure nella società dell'apparire a tutti i costi mostrare certe immagini è quasi d'obbligo, perché molti hanno bisogno di vedere per credere. A me è bastata la descrizione delle torture subite da Giulio Regeni. Povero Giulio, dice, massacrato. Gentiloni è stato fin troppo gentile. Enrico dice, ma difficile dirlo se è giusto o no mostrare le immagini, la decisione che noi non possiamo permetterci di giudicare tutta nella coscienza della madre di Giulio. Il padre di Eluana Englaro non lo fece, ma le foto furono viste da alcuni politici che si dice ne rimasero impressionati. La madre di Federico Aldovrandi pubblicò le foto del figlio ammazzato dalla polizia e ottenne giustizia almeno in parte. Voi continuate con le vostre riflessioni. Quali sono le notizie più importanti della giornata? Queste. Associazione Nazionale Magistrati a Renzi dice le parole di Renzi sono state inopportune e il Presidente del Consiglio dice facciano veloce, io chiedo che siano più veloci nelle sentenze, nei processi. Intanto l'ex ministra Guidi prende le distanze dal suo compagno, nel frattempo i carabinieri del NOI indagano sull'incidenza dei tumori nella Val d'Agri in Basilicata. Panama Papers, lo scandalo dei documenti riservati, cade la prima testa, si dimette il primo ministro dell'Islanda e spunta il tesoro della famiglia Le Pen, e c'è anche il nome del presidente della FIFA tra questi documenti, il presidente Infantino. Scusate, monito di Gentiloni a proposito del caso Regeni, dice o c'è una svolta o prenderemo misure immediate. Nuovo bonus di Renzi allo studio del governo, possibili 80 euro per le pensioni minime, però è ancora una cosa da decidere questa. E poi in campo c'è la Champions, ma ci sono le straniere, intanto stangata sul Napoli, 4 giornate di squalifica a Higuain. Torniamo allora sugli aspetti più politici legati all'inchiesta della Procura di Potenza che ha portato alle dimissioni dell'ex ministra, ormai ex ministra Federica Guidi. Ieri c'è stata la direzione del PD dove Renzi si è assunto la paternità di quell'emendamento tanto contestato, no? Nel quale la Guidi parlava nell'intercettazione telefonica col suo compagno Gianluca Gemelli, un emendamento questo inserito nella legge di stabilità, che avrebbe, secondo la procura di Potenza, favorito gli affari imprenditoriali di Gemelli, che è indagato, mentre l'ex ministra non è indagata. Renzi, dicevo, durante la direzione del PD di ieri ha detto che lo scandalo è dei tempi con cui procedono le opere pubbliche e non negli emendamenti, che se è reato bloccare le opere lo sto commentando, che è uno spasso la santa alleanza tra chi vuole votare la sfiducia e la perde. Intanto oggi vi ricordo che il Movimento 5 Stelle ha presentato ufficialmente questa mozione di sfiducia, e oggi nella sua diretta social infinita, perché ha trattato vari argomenti, appunto dal caso Regeni e Marò a questo, quindi risposte dirette su Twitter e Facebook, Renzi ha detto, a proposito delle tensioni con la magistratura, ha detto: non attacco i magistrati, li incoraggio a fare velocemente, più vanno a sentenza più siamo contenti. Sapete, l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha criticato in questi due giorni Renzi, perché aveva detto le inchieste della Procura di Potenza hanno la cadenza delle Olimpiadi, cioè ogni 4 anni ce n'è una nuova e poi non arrivano mai alla fine. Vogliamo sentire questo passaggio? Le indagini sul petrolio in Basilicata ci sono più o meno quando le Olimpiadi, nel 2000, nel 2004 e nel 2008. Ci sono stati arrestati, è ora 2016, è saltato il 2012, ma non so perché. Ci sono state più di una indagine, non si è mai arrivati a sentenza. Un paese civile è un paese che va a sentenza. E stasera a 8:30 c'era Massimo D'Alema, che tra le varie critiche anche ha parlato appunto di queste tensioni con la magistratura da parte di Renzi. Il Presidente del Consiglio è intemperante, è anche simpatico, diciamo, ad alcuni per queste sue intemperanze. Il problema è che chi è a capo del governo ha il dovere di fare appunto quelle riforme, quegli interventi di carattere amministrativo che aiutino la macchina della giustizia a funzionare, e il momento in cui ti mettono sotto inchiesta il ministro è il momento meno adatto per dire una frase come quella che è stata pronunciata dal Presidente del Consiglio, diciamo. Diciamo, Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Mi pare quindi che tra gli sviluppi di queste inchieste, diciamo le ripercussioni politiche, l'apice in questo momento sia appunto questa tensione tra Renzi e la magistratura. Sì, il botta e risposta che c'è stato dopo le dichiarazioni di ieri, oggi appunto l'intervento dell'Associazione Nazionale Magistrati, la controreplica di Renzi, che ha ribadito appunto che l'obiettivo, che lui non attacca i magistrati ma anzi li incoraggia a fare veloci, insomma fanno capire che siamo in un momento di altissima tensione. Il rischio in questo momento per Renzi, che si è un po' messo come dire, come al solito, no? In prima fila, dicendo prendetevela con me. L'abbiamo visto l'altro giorno quando ha detto l'emendamento sono io, rivendicando l'emendamento per lo sblocca lavori, e anche ieri e anche oggi il Premier vuole, come dire, riaffermare quelle che lui ritiene le sue ragioni, mostrandosi non intimorito da quelle che sono poi le inchieste in corso. Cioè le ritiene, almeno a parole, le ritiene irrilevanti rispetto agli obiettivi del governo, appunto sugli investimenti, sui lavori e quant'altro. Barbara, senti, qualcuno di nuovo è tornato a paragonarlo a Berlusconi, no? Negli attacchi alla magistratura. Lui ieri ha detto: no, io sottolineo la differenza, non ha citato Berlusconi, ma insomma si capiva che si riferiva a lui. Io non ho chiesto il legittimo impedimento, se i magistrati mi vogliono ascoltare io ci sono. La differenza è anche che una ministra che è stata intercettata si è dimessa nel giro di poche ore, nei governi precedenti non succedeva. Sì, diciamo che noi siamo vissuti per 20 anni con un rapporto abbastanza contrastato tra la magistratura e Silvio Berlusconi. Ora, diciamo, i toni di Renzi sono toni perentori, però di qui a fare come dire, un'analogia con Berlusconi, insomma, Berlusconi aveva delle, non dimentichiamo che Berlusconi aveva delle inchieste personali, cioè lui aveva dei processi suoi, e quindi poi tutta una serie di iniziative anche parlamentari o di governo venivano ogni volta imputate al Premier come per avvantaggiarsi rispetto ai suoi processi. Qui la situazione è diversa, cioè non solo il Premier non è in nessun processo, non è implicato in un processo, ma anche rispetto a quello che emerge, per esempio rispetto alla figura della Guidi, ci troviamo in presenza di un ministro che comunque se n'è andato, cioè si è dimesso, sia pure una volta scoperta, diciamo, dalle intercettazioni, come abbiamo potuto vedere, anzi ascoltare, quanto è emerso. Quindi, a questo proposito, scusami Barbara, tra l'altro sai che oggi ci sono stati degli ulteriori sviluppi in questa vicenda delle intercettazioni, no? E questa nuova intercettazione, si sentirebbe la Guidi, secondo l'inchiesta, che piange al telefono con il compagno Gianluca Gemelli perché si sente in qualche modo sfruttata, dice mi stai utilizzando, prima lo rimprovera per la scarsa intraprendenza, lo scarso impegno, dice dovresti prendere altri lavori, poi dopo piange, dice tu mi stai sfruttando in questo modo, e sembra che oggi nel suo piano comunque di difesa che sta preparando nella sua casa di Modena stia prendendo un po' le distanze da Gianluca Gemelli, dicendo non abbiamo interessi comuni, non abbiamo conti correnti in comune, addirittura viene fuori che in questi anni non hanno mai convissuto pur avendo un figlio insieme, e proprio un prendere chiaramente le distanze sembra, no, nei suoi confronti. Beh, sì, credo che questa sia la linea difensiva. È ovvio, no, che per la carica che ricopriva come ministro dello sviluppo, come ministro dell'industria, di fatto era difficile poi in questi casi dividere tra il pubblico e il privato. Anche questa frase, mi stai utilizzando, cioè riempirla di contenuto, saranno i magistrati a farlo, chiaro, in particolare, anzi la procura dovrà riempirla di contenuto, se poi questo mi stai utilizzando è riferito al fatto io sto facendo qualcosa per te che non dovrei fare, oppure semplicemente per le pressioni che magari lui utilizza il suo nome senza che lei ne sia al corrente, magari al corrente. Quindi, fra l'altro, cioè, fonti a lei vicine, Barbara, evidentemente lo vogliono far sapere sempre in questa linea difensiva, immagino, che in questi anni è stata lei con la sua propria famiglia d'origine a provvedere al figlio, non Gianluca Gemelli, quindi proprio una specie di cortina di ferro sta alzando, no, rispetto a Gemelli. Senti, ma ritornando invece sul dibattito la interno, politica, ecco, le spaccature interne al PD, ti faccio risentire ieri l'accusa pesante di Gianni Cuperlo durante la direzione del Partito Democratico. Ma io penso che tu non ti stai mostrando in questa fase all'altezza del ruolo che ricopri, e cioè penso che non stai mostrando in questi passaggi delicati e per certi versi drammatici della vita del paese e della sinistra la statura di un leader, anche se a volte purtroppo coltivi l'arroganza dei capi. Quindi pesantissima questa accusa di Cuperlo, anche se oggi ha detto io non è che lo volevo insultare gratuitamente, perché effettivamente così si rischia la divisione. Su questo rischio di divisione del PD torna anche D'Alema poco fa, 8,5 sulla 7, sentiamolo. Ci sarebbe bisogno di un leader della sinistra in grado di unire. Invece Renzi è un uomo che divide in modo provocatorio. Che ne pensi, Barbara Fiammeri? Cioè, Renzi sta spaccando, sta dividendo, sta dilaniando il PD? Non è all'altezza del suo ruolo, come dice Cuperlo? Allora, qui ci sono due versioni, ovviamente, quelle della cosiddetta minoranza e quella, certo, di Renzi, no? Allora, l'accusa di Cuperlo l'abbiamo sentita. Quello che dicono i renziani è che Renzi ha salvato il PD, nel senso che sappiamo com'era finita alle scorse politiche, e di fatto poi Renzi ha come dire, incrementato il consenso nei confronti del Partito Democratico. È chiaro che siamo in un momento delicato, e direi che l'attacco di Cuperlo di ieri non può essere certo definito casuale, perché è un po' un attacco a freddo, cioè viene messa in discussione la leadership del segretario premier, appunto, come abbiamo sentito proprio nella dichiarazione, cioè non c'è un contenuto se non un'accusa, come potrei dire, non circostanziata, no? Quindi è un'accusa proprio a lui come segretario in generale, e avviene proprio in un momento particolarmente delicato, non solo per l'inchiesta, ma perché siamo a 2 mesi dalle elezioni amministrative. La sensazione tra, come dire, chi si occupa di politica è che la scommessa della minoranza sia in una sconfitta del PD alle amministrative per poi fare la pelle al segretario. Insomma, adesso la sintetizzo anche un po' brutalmente, però questa sensazione c'è, e le divisioni anche che ci sono state nelle primarie, le spaccature, le varie mini scissioni che ci sono state da un anno a questa parte, in qualche modo incoraggiano questa lettura. Certo, per Renzi le prossime elezioni sono decisive, è un po' un uno contro tutti, no? Che poi che è quello che lui vuole, perché l'ha posta in questo modo, nel senso che anche sul referendum, ma lui si pone in questo modo, sul referendum, mi riferisco al referendum costituzionale, se perdo vado a casa, cioè è una sorta di ultimatum, e quindi vediamo chi sta con me e contro di me. Ecco, la sensazione che si ha è che nel PD c'è chi scommette sull'eventuale sconfitta elettorale, per esempio, non so, una sconfitta a Milano piuttosto che a Torino, per poi far pagare il conto al segretario. Questo perché? Perché non bisogna mai dimenticare poi che in gioco ci sono gli equilibri interni, e mi riferisco al fatto che tra un anno o al massimo due si tornerà alle urne per il rinnovo del Parlamento. Certo. E quindi ci sarà da fare le liste elettorali e ci sarà da decidere chi torna in Parlamento e chi no. È una battaglia all'ultimo sangue. È una battaglia, io direi che è proprio una battaglia all'ultimo sangue. Grazie Barbara Fiammeri. Ciao, prego, a presto Barbara. Buonasera a tutti. Ciao. E adesso vorrei anche far sentire, però, intervistata dalla nostra Elisabetta Fiorito, Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, a proposito della sfiducia presentata oggi dal Movimento. Onorevole Ruocco, il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia, ma riuscirete comunque a far votare anche l'altra parte dell'opposizione? Spero di sì, se le opposizioni si decidono a fare il loro lavoro e non a fare solo passarelle mediatiche, dovranno votare la mozione che prevede che il governo torni a casa, perché è un governo intriso di conflitti di interesse che non fa gli interessi dei cittadini ma di petrolieri e di banchieri. Non vi ha convinto Matteo Renzi, che ha chiesto di essere ascoltato dai PM? Ha sfidato la magistratura, ma come sappiamo la magistratura è il terzo potere dello Stato. Il governo iniziasse a fare il proprio dovere e quindi gli interessi di chi dovrebbe rappresentare, cioè il popolo italiano. Ancora i vostri messaggi. Le foto di Giulio non vanno esposte, non c'è logica, che scopo, scrive un ascoltatore. Poi un altro che dice massima ammirazione per la scelta ventilata dalla madre di Giulio, questa vicenda è diversa da quella di Marò ma sembra dimostrare che l'Italia conti poco a livello internazionale, così scrive Marco da Bergamo. Pausa e ci sentiamo proprio un momento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, se state ascoltando Effetto Notte naturalmente siete al posto giusto nel momento giusto con la giusta conduttrice, anche Roberta Giordano con voi. La domanda che vi ponevo questa sera, abbiamo appena parlato lungamente delle implicazioni politiche e non solo che riguardano l'inchiesta che ha portato poi alle dimissioni della ministra Guidi, dell'ex ministra Guidi, vi chiedo invece sul tema di Giulio Regeni, di cui parleremo tra pochissimo. Oggi ha parlato Gentiloni in Senato, ha cercato di sollecitare ulteriormente le autorità egiziane per arrivare finalmente alla verità. Vi dicevo che giorni fa la madre di Giulio Regeni, in quella conferenza stampa così molto dolorosa che ha tenuto insieme al padre, ha detto che potrebbe esserci la possibilità, se proprio si riesce ad avere una svolta, di mostrare anche le foto terribili del corpo martoriato, del viso martoriato di Giulio Regeni. Voi ritenete che possa essere una cosa opportuna, che potrebbe servire effettivamente? 349-238-6666, sempre il numero per i messaggi, SMS e WhatsApp, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Fra l'altro, due ascoltatori molto attenti, uno lo lo fa anche di professione, il chirurgo plastico. A proposito della notizia che vi avevo raccontato nella ricostruzione della giornata all'inizio, eccezionale dal Brasile, questa agenzia che raccontava di una mano che per salvarla, visto che era rimasta bruciata, scoperta la pelle, scopriva tendini e la carne, l'avevano cucita come in una tasca nell'addome a quest'uomo per salvargliela. Dice Massimo: per effetto note volevo riferirvi per quanto riguarda la mano inserita nella pancia. Io l'ho visto personalmente fare nel reparto di neurochirurgia a Legnano nel 1982, ripeto 1982, diverse volte dal dottor Tonnarelli, dopo aver riattaccato mani amputate a diverse persone per questo motivo. E poi Stefano anche scrive: sono un chirurgo plastico, intascare una mano nell'addome per ricostruirla è una cosa che si fa da decenni, l'agenzia che l'ha passata come una novità ha preso un abbaglio. Quindi hanno chiarito gli ascoltatori esperti di questa cosa e ci rincuora anche che sia così diffusa nel caso ci fosse bisogno. Adesso vi riassumo brevemente quali sono le notizie più importanti della giornata. L'inchiesta su Tempa Rossa, botta e risposta tra Renzi e magistrati, mentre il Movimento 5 Stelle presenta la mozione di sfiducia contro il governo. Lo scandalo Panama Papers, il premier islandese messo sotto pressione dalle proteste di piazza si dimette, e a Kiev le autorità fiscali ucraine indagheranno sul presidente Poroshenko, mentre spunta tra i documenti anche il nome di Infantino. L'assassinio di Regeni, monito di Gentiloni, o c'è una svolta su Regeni o prenderemo misure immediate, ne parleremo a breve. La crisi dei migranti, il Papa potrebbe andare molto presto nell'isola greca di Lesbo insieme al patriarca di Costantinopoli. Pensioni: Renzi annuncia che è allo studio del governo un bonus di 80 euro per le pensioni minime. E per il calcio torna in campo la Champions senza italiane, il Napoli pronto a ricorso contro le 4 giornate di squalifica per Higuain. L'omicidio di Giulio Regeni ha scosso le nostre coscienze e il paese intero, perché è stata troncata la vita di un giovane italiano esemplare, dottorando a Cambridge e ricercatore alla American University del Cairo, per il modo in cui è stato atrocemente torturato e ucciso, per la lezione di compostezza e di dignità che hanno dato i suoi genitori. Ci fermeremo solo quando troveremo la verità, quella vera e non di comodo. Così ha detto il ministro Gentiloni, ministro degli esteri, oggi in Senato. Ha ribadito lo stesso concetto che da più giorni, da più tempo ripete Renzi, cioè ci fermeremo solo quando arriveremo alla verità. Questo l'ha detto Gentiloni a 2 giorni da questo incontro che ci sarà a Roma tra una delegazione di inquirenti egiziani e investigatori italiani, e ha lanciato un avvertimento appunto alle autorità egiziane: se non ci sarà un cambio di marcia, il governo è pronto a reagire con misure immediate. Sentiamo anche questo passaggio. Una cosa voglio dire già qui, oggi, tuttavia, e la voglio dire qui in Parlamento affinché non ci siano dubbi di sorta. Se questo cambio di marcia non ci sarà, il governo è pronto a reagire adottando misure immediate e proporzionate. È per ragione di Stato che non ci rassegneremo all'oblio di questa vicenda, ed è soprattutto per ragione di Stato che non consentiremo che venga calpestata la dignità del nostro paese. Saluto Ugo Tramballi, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Ugo. Ciao, buonasera. Senti, queste parole di Gentiloni oggi sembrano in un primo tempo abbiano molto irritato le autorità egiziane, tanto che il portavoce del ministro dell'Interno ha detto queste parole aggravano la situazione italiana, come se avessero anche il diritto, insomma, di dire queste cose. Poi però è stato più conciliante nell'esprimersi il presidente egiziano Al-Sisi, che ha ribadito, no, vogliamo continuare la piena cooperazione con l'Italia. Come procederà secondo te, a che punto siamo e come procederà in questi giorni? Domani arriva la delegazione egiziana in Italia, poi il 7-8 ci sarà questo vertice. Beh, in diplomazia quello che ha detto il ministro sarebbe stato sufficiente per interrompere, bloccare, cancellare la visita di giudice poliziotti egiziani, nel senso che è estremamente condivisibile quello che il ministro degli esteri ha detto. Però Gentiloni, che è un ministro molto soft, che non ha mai fatto dichiarazioni molto forti, perché, come dire, è a partire dal suo essere, che è un ministro molto moderato, e nella tempistica forse non c'era bisogno di dire oggi questa cosa, nel senso che questo messaggio agli egiziani gliel'abbiamo mandato già in questi mesi, in questi ultimi giorni, soprattutto in maniera molto forte e chiara. Renderlo pubblico così, parlando di ragioni di Stato adesso, a 2 giorni dall'arrivo di questa missione, che è la missione dalla quale noi vogliamo avere delle risposte precise, vogliamo avere una verità, ma forse è sbagliato, nel senso che in questi giorni gli egiziani hanno mandato piccoli segnali di comprensione di quello che noi intendiamo per verità, hanno capito che non possono disgiungere quello che è accaduto a Giulio da quello che è il regime poliziesco egiziano. Questa cosa potrebbe, credo di no, perché gli egiziani sono molto disperati in realtà in questa situazione, il regime egiziano, però potrebbe anche in qualche modo allontanare o congelare questa nostra ricerca della verità. Detto questo, è evidente che Gentiloni ha assolutamente ragione. Chiaramente, no? Forse ha voluto mettere le mani avanti, state arrivando, mi raccomando, non prendeteci in giro un'altra volta. Comunque, insomma, gli italiani si aspettano vari documenti, perché finora hanno in mano soltanto questo dossier di 91 pagine, tra l'altro in arabo, vogliono i video fatti dai, presumiamo, i servizi segreti, le foto, le intercettazioni, i tabulati telefonici e anche l'ultimo documento più completo sull'autopsia, perché in realtà i risultati dell'esame autoptico finora che si hanno, insomma, è decisamente esiguo, ridotto. Senti, dimmi una cosa per chiudere, dal tuo punto di vista, Ugo. L'ipotesi appunto che la mamma ha ventilato di Giulio Regeni i giorni scorsi, estrema anche da parte sua, no? Ha detto di mostrare le foto, le immagini del suo corpo, del suo viso, potrebbe essere una scelta giusta? Lei è la madre, non mi posso permettere di giudicare, di dire che sia giusto o sbagliato. Nel senso, potrebbe servire, ecco, diciamo, potrebbe servire a smuovere ulteriormente le coscienze. Io credo che, cioè, non ho mai visto in tutti questi anni, in tanti anni, non ho mai visto una diplomazia, un sistema politico, ma soprattutto un'opinione pubblica, soprattutto giornali. Pensate solo ai 24 ore quanto ha insistito su questa cosa, solo ai 24 ore che appunto quelli della teoria, delle teorie sempre del complotto pensano che sia il giornale della Confindustria, che quindi pensa che sia che la Confindustria, l'ENI e tutti quanti abbiano interesse a far sparire, a far dimenticare questa vicenda. Quanto invece solo 24 ore ha insistito su questa vicenda, quanto l'ENI, quanto le imprese italiane che sono coinvolte lì hanno fatto pressione sui loro interlocutori di diritto per avere la verità su Giulio. Io una cosa così in Italia non l'avevo mai vista. E credo che questo sia estremamente importante. Quindi dice, non è necessario arrivare a quei punti. Comunque aspettiamo con molta ansia. No, ci mancherebbe. Poi la mamma di Giulia ha tutto il diritto di fare quello che pensa che sia giusto e sarà comunque giusto. Grazie Ugo Tramballi. Grazie. Ciao Ugo. A voi. Ciao, viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E le notizie ve le ricordo in pochi secondi, mentre voi continuate con le vostre riflessioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Tensione tra Associazione Nazionale Magistrati e Renzi, associazione che dice parole inopportune, quelle di Renzi sulla procura di Potenza. Renzi dice: voglio solo che facciano veloce. Intanto la ministra Guidi prende le distanze dal compagno e i carabinieri del NOI indagano sull'incidenza dei tumori nella Val d'Agri. Panama Papers, lo scandalo, cade la prima testa, si dimette il primo ministro islandese, spunta il tesoro dei Le Pen e anche il nome del presidente della FIFA, Infantino. Monito di Gentiloni, svolta su Regeni, prenderemo misure immediate, ne abbiamo appena parlato. Nuovo bonus di Renzi, annuncia questo possibile nuovo bonus di 80 euro allo studio del governo per le pensioni minime. Europa 24 notte. È appena stata presentata l'edizione 2016 di EU Multirank, una sorta di motore di ricerca tra le università del pianeta, finanziato dall'Unione Europea, è stato elaborato per aiutare gli studenti a compiere la migliore scelta possibile per la loro istruzione superiore. Ce ne parla Laura Bettini. Lo strumento è indubbiamente divertente. Dichiaro ad esempio che vorrei fare un master in storia in una università molto piccola e orientata alla ricerca. Schiaccio il tasto invio ed ecco le proposte. Con i criteri standard, la prima scelta è l'Università delle Baleari, seguita da quelle di Belgorod in Russia e Bergen in Norvegia. Ma se cambio i parametri e do la precedenza al rapporto tra numero di professori e numero di alunni, la prima università diventa Chirona e la seconda Tomsk, sempre Spagna contro Russia comunque. Per gli studenti, EU Multirank è uno strumento straordinario per frugare tra le università europee e non. Lauree, master e dottorati, senza spendere una fortuna in francobolli come toccava fare una volta. EU Multirank is done by a consortium of European research organizations. È il frutto del lavoro di un consorzio indipendente, finanziato dalla Commissione europea, ci dice Guido Fiederkeil, coordinatore del progetto. The other major partners are the Center for... ed è condotto da 3 centri di alti studi, uno in Germania e 2 in Olanda, i massimi esperti, ci dice, di indicatori di ricerca e bibliometrici, e cioè quelli elaborati per analizzare i modelli di distribuzione delle pubblicazioni scientifiche e il loro impatto all'interno delle comunità scientifiche. Fondamentali per le classifiche, tutte disponibili sul sito, che tengono conto di numero di pubblicazioni, citazioni, studi interdisciplinari o internazionali. Ma l'informazione in più che dà questa ricerca rispetto ad altre sta nell'aver inserito voci come collaborazioni con l'industria, mobilità degli studenti, brevetti, risultati di sondaggi compiuti tra gli studenti stessi. Il target, spiega Fiederkeil, sono gli studenti. Vogliamo aiutarli a fare scelte consapevoli sull'università. Per loro è particolarmente importante che ci siano diversi indicatori di insegnamento e apprendimento. Vogliamo che ciascuno possa trovare gli indicatori che servono a determinare il suo personale corso di studi. Spiccano in queste classifiche le 3 citazioni dell'Università Telematica Marconi per le pubblicazioni, la notevole performance della Bocconi per la formazione di professionisti esterni all'università, la stessa categoria in cui compaiono anche l'Università per Stranieri di Siena e la Seconda Università di Napoli. E poi ancora le buone prestazioni generali della solita Bocconi, ma anche dei Politecnici di Bari e Milano, dell'IMT di Lucca e dell'Università di Pavia. Se si guarda al tradizionale indicatore della ricerca, le università americane eccellono, spiega ancora Guido Fiederkeil, ma se guardiamo alla didattica, all'internazionalizzazione, allora molte università europee figurano anche meglio di quelle americane. Non è questo un elenco esaustivo di tutto quello che c'è in giro per il mondo, ma con un database di 1300 università c'è da divertirsi comunque. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E a proposito di Europa, vi ricordo che c'è il sondaggio sul sito di radio24.it perché l'Europa sta diventando così impopolare. Potete votare, votare, votare. Adesso però invece parliamo del nuovo viaggio del Papa, di Papa Francesco, un viaggio speciale. Andrà molto presto, pare, sull'isola greca di Lesbo. È vero Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore? Sì, ciao Roberta, ciao, sì, l'annuncio non c'è ancora ufficiale, ma è trapelato dalla Grecia, sì, anche il governo di Atene l'ha confermato che il 15 aprile, verosimilmente, che è un venerdì, il Papa andrà per un giorno a visita lampo nell'isola di Lesbo, appunto che, come sappiamo, è il luogo simbolo dei migranti nel Mediterraneo, con diciamo così il transito dei profughi della Siria attraverso il confine turco. Una visita anche simbolica perché arriva all'indomani dell'accordo fra Unione Europea e Turchia sul respingimento, di fatto sull'espulsione di persone arrivate considerate irregolari appunto in Grecia dal confine turco. Il Papa, diciamo così, da tempo ha messo al centro i migranti, lo ha fatto nel recente viaggio in Messico, lo fece nel 2013. A Lampedusa, no? Esattamente, il primo viaggio che fece fuori Roma a Lampedusa era l'8 luglio 2013, quando parlò della globalizzazione dell'indifferenza, che poi è una delle parole chiave del suo pontificato. Senti Carlo, ci sarà con lui anche il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, no? Quindi sarà ancora più... un livello simbolico ancora più peculiare questo. Sì, esatto. Allora, diciamo, da tempo il dialogo con gli ortodossi è fortissimo, con quelli di Costantinopoli è ormai consolidato. C'è stato recentemente quello con il patriarca di Mosca, che era quello, diciamo, il nodo più complesso, e quindi diciamo c'è un'azione di tutte le chiese cristiane principali su questo tema, le due chiese principali cristiane su questo argomento, e cerca di mettere in mora le responsabilità dei governi sui ritardi, non solo quelli europei ma anche probabilmente quello turco, e poi insomma va abbastanza vicino alle origini del conflitto, non va in terra di guerra, ma insomma è quello anche il tema del conflitto in Siria. Serve giusto la conferma, ma sembra ormai cosa fatta. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te, ciao. Ciao Carlo. Ancora faccio tempo a leggere un messaggio di Elena sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Temo che la pubblicazione dell'immagine del corpo martoriato di Giulio non gioverebbero a imprimere alcuna svolta. Purtroppo non penso proprio che i servizi segreti e vari enti governativi che probabilmente hanno ucciso questo ragazzo si lasciano impressionare dalla sua immagine da morto, anche se diciamo la pressione non sarebbe tanto su di loro ma sulla comunità internazionale. Però per il momento vi devo salutare, ci riaggiorniamo alle 22.